3, 2, 1, via! Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata dell'Incredulo. Io sono qui, sono Elisa, come avete ormai imparato a conoscermi, e dall'altra parte invece c'è il nostro incredulo Giorgio. Buongiorno Giorgio! Grande Elisa! Allora, che cosa tenti di farci credere oggi? Andiamo, su! Hai mai sentito parlare del sale rosa dell'Himalaya? Il sale rosa dell'Himalaya? Ma dai, Elisa! Ma il sale lo sanno tutti che si prende dal mare! L'Himalaya sarà alto 8 milioni di mila di chilometri! Ma come fa a esserci il sale? C'è il sale perché è una delle catene montuose più nuove della faccia della Terra e quindi contiene ancora tanto sale, tra l'altro rosa, di un colore molto molto femminile. E con questo sale, oltre a essere un sale molto migliore rispetto al sale che possiamo comprare in qualsiasi supermercato, ci si fanno delle lampade. Hai mai visto quelle lampade di quel colore arancioncino rosato, che sono tipiche di questi centri benessere oppure di questi negozi etnici? Ma quelle lampade che sembra una pietra e c'è dentro una lampadina, ma quella è roba cinese, è vetraccio comprato in qualche discount orientale. Andiamo, tanto per fare un po' d'atmosfera. E invece no, sono pezzi di sale lavorati, tra l'altro pesano quelle grosse, l'ira di Dio, perché te lo posso assicurare che ce n'ho in casa una che pesa 50 kg e mi è quasi venuta l'ernia a montarla. Però sono di sale, quindi non è plasticaccia chimica dei cinesi. La lampada di sale, ma questa è una trovata, scusami, ma alla fine va bene, lo comprendo, quello è un blocco di sale e c'è dentro una lampada o una luce, ma al di là dell'effetto scenico, a che serve? Allora, oltre a fare una luce, secondo me è fantastica, e se uno ha bisogno di rilassarsi o di riposare un po', è bellissima. La cosa principale per cui vengono usati e venduti è come deumidificatori naturali, ma in realtà c'è molto di più, perché queste lampade, oltre a essere, come vi dicevo, dei deumidificatori naturali, rendono più salubre l'ambiente in cui viviamo, a partire dall'aria che respiriamo nelle nostre stanze. Questo perché le lampade di sale hanno un effetto ionizzante che purifica l'aria, donando una più piacevole sensazione di benessere. Quindi, se la metti in camera o la metti nello studio dove hai bisogno di lavorare in una situazione tranquilla, questa lampada aiuta la concentrazione e l'attenzione e migliora la produttività, stimola il sistema immunitario. Praticamente queste lampade dovrebbero essere utilizzate in tutte le case, ma anche in tutti gli uffici dove ci sono dei computer, degli apparecchi elettronici. Quindi l'effetto che hanno sulle persone che stanno intorno alla luce o a questa lampada di sale, alle sue emissioni, chiamiamole fisico-chimiche, in qualche modo ne beneficia, e sotto vari punti di vista. Ma esattamente come funziona? Come reagisce la lampada con l'ambiente? È il calore della lampadina che fa produrre questi ioni, oppure c'è qualcos'altro? È il calore della lampadina e la composizione del sale. E infatti ci va messa una lampada a incandescenza, quindi non quelle LED o a risparmio energetico, devono essere proprio quelle lampadine un po' vintage, perché la lampada in qualche modo si deve scaldare. Scaldandosi riesce quindi a rendere l'ambiente un pochino più armonioso. Pensa te quante ne studiano! E queste lampade con che sale sono fatte? Con il sale della salina di Cervia, con il sale che si compra da qualche parte, magari da quelli che vendono la roba per le piscine? No, viene proprio da pezzi di sale dell'Himalaya, quindi vengono importati, diciamo, dei tocchi di sale dall'Himalaya, nelle quali poi vengono lavorati e fatte queste lampade, che ci sono dalle dimensioni più piccole, anche formato USB da attaccare al computer. Figurati. Ah, le lampade, come ti dicevo, arrivano oltre i 50 kg, quindi un bel diametro. La grossezza della lampada fa differenza? Ossia, più è grande, più è potente, quella magari USB da computer o da telefonino si fa, ma insomma, solo se la si sniffa. No, fare fanno tutte. È chiaro che se hai un ambiente grande da purificare, la lampadina piccola gli fa poco. Le lampadine USB sono appunto utili da attaccare al computer quando uno lavora tutto il giorno al computer o ci sta diverse ore, per attenuare un po' gli effetti del campo elettromagnetico, degli ioni negativi, per riuscire anche a purificare l'aria e concentrarsi di più, mentre le lampade grosse sono utili per ambienti grossi, per sale, per centri benessere, per camere da letto, se uno la vuole tenere in camera da letto, ecco. L'effetto è lo stesso, è chiaro che una lampadina piccina messa in un salone enorme riesce a lavorare poco. Siamo bombardati continuamente da onde elettromagnetiche di varia natura, i telefonini, il wifi, i computer e poi quelle che non sappiamo manco che esistono. Elisa, questa lampada al sale, siccome queste onde elettromagnetiche effettivamente bene non fanno, anzi fanno malissimo alla salute, queste lampade hanno la capacità in qualche modo di proteggerci o schermarci da questo tipo di inquinamento di recente invenzione? Sì, sicuramente sì, quindi riescono a proteggerci dall'inquinamento elettromagnetico, emettono quindi anche nell'aria ioni negativi che vanno quindi a contrastare gli ioni positivi che vengono emessi dai campi elettromagnetici di tutti questi elettrodomestici aggeggi infernali che ci abbiamo in casa accesi tutto il giorno, e quindi carica l'ambiente di energie positive, quindi cerca in qualsiasi modo di contrastare tutti gli effetti negativi che vengono emessi dai campi elettromagnetici dei vari mezzi che abbiamo in casa, dalla televisione al computer al frigo al wifi al modem, a qualsiasi cosa. Beh, questa non è cosa da poco. Alcuni studi, per esempio americani o quantomeno presentati in America, facevano vedere che certe antenne, per esempio di cellulari, sono in grado addirittura di bruciare un albero o comunque una parte del suo fogliame. Pertanto figuriamoci quali sono gli effetti sugli uomini. E questa storia del deumidificare. Ora, beh, comprendo che in posti tipo a Venezia o chi vive lungo i fiumi o lungo i torrenti, il Mugnone a Firenze è famoso per essere un posto umidissimo, addirittura Boccaccio parlava dell'umidità del Mugnone, ma anche qui da noi, insomma, non si scherza. Però, a parte queste situazioni, in una casa normale, regolare, di città o di paese, ma deumidificare che cosa? A che serve? Ora dipende un po' anche che tipo di casa uno ha, che altezza sta, però ci sono case che sono molto umide proprio per la loro conformazione. Ora, Firenze è una città umidissima, lasciando stare il Mugnone, però è veramente tanto tanto umida. Ti assicuro che in queste giornate in cui c'è questa pioggerellina molto inglese, l'umido si sente, e loro riescono comunque anche a contrastare gli effetti di quello che ci entra dalle porte, dalle finestre, e che magari ci potrebbe far ammalare, perché comunque troppa umidità non fa bene. Come agisce questa umidità sulle persone, sui corpi? Indebolendo sicuramente il sistema delle difese immunitarie, quindi ci viene il tipico mal di gola, ti vengono i dolori, ora dipende dall'età, comunque ti posso assicurare che anche alla mia età ti puoi alzare la mattina incriccato, quindi dolori articolari, dolori, mali di soliti mali di stagione invernale che vengono sempre definiti, quindi influenza, doloretti, raffreddore, mal di gola, eccetera, eccetera. Un'altra cosa che mi ha colpito della tua spiegazione è il fatto che aiuta l'avere questa lampada al sale vicino per aumentare la concentrazione e per migliorare le proprie performance. Ora si parla di lavoro perché siamo in una società in cui il lavoro che non c'è, tra 5 anni le macchine ci buttano tutti fuori, ma per esempio per chi si dedica a attività creative, per chi dipinge, per chi fa mille cose, la musica, come la lampada al sale lo aiuta nel suo sforzo creativo? Sicuramente purificando l'aria, quindi cercando di togliere tutti gli ioni positivi, che in realtà sono quelli che fanno rendere l'aria più pesante. Quindi il fatto di purificare l'aria, il colore arancione stimola tanto sia la concentrazione che la produttività, ma è anche legato al colore del chakra, del secondo chakra, quindi il chakra della creatività, della gioia di vivere. Quindi questi colori richiamano tantissimo la voglia di fare, di produrre e di stare bene, quindi danno proprio una piacevole sensazione di benessere, che è poi il punto fondamentale da cui uno parte per qualsiasi tipo di lavoro, per un lavoro diciamo un pochino più tecnico o diciamo burocratico o al computer, quindi che necessita di concentrazione, ma anche a livello di, se uno dipinge o fa attività manuali, aiuta proprio a concentrare la creatività. Quindi, Elisa, viviamo in ambienti che sono potenzialmente pericolosi, nel senso che hanno tutta una serie di elementi spesso invisibili che diamo per scontati o diamo per normale che ci siano, quando in realtà poi contribuiscono ognuno, magari in maniera piccola, però in maniera consistente, a non farci stare bene in salute, né di testa né fisicamente, l'umidità, questi ioni, le onde elettromagnetiche, e quindi la lampada al sale sarebbe una soluzione, una prima soluzione. Esatto, tra l'altro mi sono dimenticata di dirvi che aiutano tantissimo anche in caso di asma e allergie, quindi se avete dei bambini o delle persone che soffrono tanto di asma, di allergie, posizionarli nella stanza in cui stanno di più li aiuta un pochino a trarre beneficio di questi malesseri. Portare una lampada al sale nella vostra casa significa cercare di accenderla il più possibile di giorno, magari quando non ci siete, e spengerla la sera prima di addormentarvi, perché durante il giorno lei, se non state tanto a casa, lavora come purificatore di tutta la stanza, e quindi tornate a casa e trovate un ambiente diciamo un pochino più salubre. Mentre al lavoro, se lavorate al computer o siete in un ambiente in cui è pieno di come abbiamo detto, di apparecchiature che generano campi elettromagnetici, sarebbe ottimale accenderla appena arrivate e spengerla quando andate via, oppure lasciarla accesa. È chiaro, se avete un USB si spenge qua alla chiusura del computer o del portatile, però se avete una lampada normale la potete lasciare accesa tranquillamente, tanto hanno pochissime, sono lampadine da poche volt, e così vi ripurifica l'ambiente e la mattina entrate in un ambiente un pochino più salubre. Mi sono quasi interessato a provare questo tipo di aggeggio. Elisa, dove di solito si trovano queste lampade per essere acquistate? A meno che uno vada sull'Himalaya, si scavi un pezzo di sale e poi sia in grado di montarsi una lampada, perché sa fare pure l'elettricista. Allora, le potete comprare online, ci sono tantissimi siti, dai più famosi e-commerce ormai le vendono. Poi le potete prendere in un negozio etnici, erboristerie molto fornite, oppure negozi che si occupano di feng shui, quindi di posizionamento dei mobili e delle stanze secondo un determinato criterio. Però principalmente online nelle erboristerie un pochino più fornite le trovate sicuramente. Elisa, grazie di queste informazioni. Ignoravo che esistessero lampade di questo tipo, perlomeno per le case, e le ritenevo semplicemente un oggetto d'arredo. Invece è qualcosa di più, invece sono qualcosa di più. Quindi grazie per averci dato questa dritta. Grazie a te, Giorgio, per avermi ascoltato, e mi auguro di sapere presto di un acquisto di una lampada di sale per la tua casa. Ringraziamo gli ascoltatori di Radio Big World che ci hanno seguito fino a qui e quelli che non sono già usciti a comprare una lampada al sale. Nel caso la lampada al sale non funzioni, c'è comunque l'opportunità di sbriciolarla e di farci una bella pasta asciutta. Grazie!